Esercizio 4. Ascolta e ripeti le frasi dell'esercizio 3. Questo quadro vale una fortuna. Questa valle è molto fertile. Non posso mollare proprio ora il mio progetto. Per questo lavoro serve una pala meccanica. Ho un molare cariato. Questi sbagli sono causati da un calo di attenzione. Alle sue bugie ormai ci ho fatto il callo. Una stele è una lastra di marmo con dedica a divinità o imperatore. In questa zona ci sono molte belle ville. Non si deve giocare a palla per strada. Si è comportato in maniera vile. Osservare le stelle è uno spettacolo affascinante e sempre nuovo.